Comunque, voi sarete anche bravi, ma i vostri registi e i vostri redattori e redattrici lo sono ancora di più. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Beh, ma si sa, dall'Alpine Regia alla redazione con Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, loro sono la trasmissione, la spina dorsale della trasmissione. Più salario meno orario, più salario meno orario, più trattenute a signor Milan, più salario meno ma orario. Ma perché trattenute a me? Cioè non è che vi devo pagare io lo stipendio, vabbè, comunque. Loro appunto sono la spina dorsale, mica gente alla Leonardo Manera, debosciato che non è altro. Anche oggi non sarà con noi, ma ci ha mandato dei contributi per concludere questa settimana che non è una settimana qualunque. È l'undicesima settimana decisiva per la riforma elettorale. Purtroppo non è stata quella proficua da questo punto di vista in Parlamento, ma la dodicesima è alle porte e noi confidiamo che possa esserlo. Dodicesima alle porte. Chissà, chissà. Vabbè, vediamo. Intanto 9-8 minuti, siamo... Questa volta Sanchez a lui, tra tre avversari, filtra in area e poi la piazza meravigliosamente, un gol fantastico questo di Auge. Siamo secondi, quindi, però qualificati, ma secondi. Goleada anche ieri. Vabbè, dai. Allora, Thor abbiamo, ti piace questo? Thor abbiamo comprato. Come lo chiama il mio amico Andrea Vianello, il figlio di Thor. 9-9 minuti, ci siamo cari ascoltatori, 800-24-0024 è il numero per intervenire in diretta, 349-238-6666 è il numero per i vostri WhatsApp. Abbiamo tanti argomenti da affrontare in questa puntata, non c'è solo il Covid, ricordatelo, noi parliamo di tante cose, anche del mondo al di fuori, perché non mi piace questa, sapete, infodemia sul Covid, e quindi allarghiamo un po' gli orizzonti. Partiamo, Alpino. I will not be easy, and it will not be easy. All right. Basta metallari. Yeah. Rock duro. Rock duro. Well, rock duro. I must admit. Iniziano anche le prime mail poche di dissenso per le scelte di DJ Lucchetti. Dicono che siamo troppo duri, troppo cattivi. Rock duro. Appunto. seguirà dibattito contro me. Fatemi iniziare la trasmissione come la inizio da tempo. Da 95 giorni ci sono 18 marittimi di Mazara del Vallo che sono detenuti e trattenuti in Libia. Prima di questo voglio fare anche una premessa sulla vicenda di Ahmadreza Djalali che stiamo seguendo, condannato a morte in Iran. Oggi Fausto Biloslavo sul Giornale scrive in una pagina che, lo sappiamo, e questa è la fiammella di speranza che abbiamo raccontato ieri anche con la figlia di Ahmadreza, e cioè l'esecuzione è stata rinviata da alcuni giorni, ma oggi Fausto Biloslavo entra più nei dettagli e racconta che si profilerebbe una possibilità, quella di uno scambio di prigionieri, e cioè, abbiamo detto ieri, c'entra anche il Belgio, perché in Belgio è sotto processo, tra l'altro per l'accusa grave di aver partecipato a un'organizzazione di un attentato in Francia poi sventato, un funzionario dell'ambasciata iraniana. Si chiama vai a scoprire come si chiama, l'avevo trovato, comunque questo funzionario si chiama Assadollah Assadi, eccolo qui. Potrebbe essere l'elemento di scambio, cioè dall'Iran dire dateci indietro Assadollah Assadi e noi potremmo liberare Ahmad Reza Jalali, che ricordiamo rischia l'impiccagione da 5 anni in carcere perché è accusato di essere una spia del Mossad. In realtà è un ricercatore universitario, ha lavorato anche in Italia, e speriamo davvero che ci sia questa possibilità. Funziona così la diplomazia. Dicevo, 95 giorni e non si sa nulla di questi 18 marittimi di Mazara del Vallo. Io torno con piacere a sentire la figlia di uno di questi marittimi, Insaf, che torna con noi. Buongiorno e grazie di essere qui. Ovviamente notizie non ne avete, immagino, dall'ultima volta che ci siamo sentiti. No, nessuna notizia, dal 1 settembre. Qui c'è un dibattito intenso, secondo me anche un po' surreale in Italia, sul Natale, come farlo, con chi passarlo. Noi ci siamo sentiti poco fa, anche per voi il Natale, pur essendo di un'altra religione, è comunque un momento di aggregazione, perché suo padre è in Italia da tempo. Cosa fate voi al Natale di solito? Noi non lo festeggiamo, ma è un momento di condivisione, perché mio padre dopo tanti giorni ritorna a casa e noi lo aspettiamo con ansia, e quindi passiamo questi giorni festivi, c'è anche di mezzo il Capodanno, quindi questi giorni li passiamo tutti insieme in famiglia. Ma vi parlava mai di possibili pericoli di questo tipo, pericoli in cui è finito, pericoli di tensione con la Libia, quando andava per mare, quando tornava poi a casa? Cioè... Il lavoro che fa mio padre è pericoloso di suo, ma non abbiamo mai pensato che potrebbe arrivare la situazione a questo punto. Cioè, questo non l'abbiamo mai pensato noi, sì, di arrivare a questo punto. Cosa? Il pericolo c'è già di suo, cioè mio padre ogni volta esce di casa a salutarci, è come se fosse l'ultima volta, perché il mare è pericoloso già di suo. Questo sì, il mare va rispettato, ecco, ma non questo tipo di pericoli. Cosa si auspica lei? Cioè, cosa aspettate voi di novità, ovviamente? Cosa immaginate che potrebbe accadere per cambiare la situazione? Perché c'è un silenzio totale su questa vicenda. Ed è questo silenzio che ci preoccupa tantissimo. Noi ovviamente la speranza non muore mai e aspettiamo ogni secondo, contiamo i secondi, cioè non vediamo l'ora di arrivare, che ci arrivi questa telefonata che ci avvisa il loro ritorno. Questo è quello che aspettiamo. Poi cosa fanno loro di politica, a noi non ci interessa, però sappiamo che c'è una trattativa in corso che non riescono a concluderla. Questa trattativa, infatti, se ne è parlato molto in SAF. Io spero che per Natale, o comunque spero presto, spero domani anzi, che possano essere liberati. Lo speriamo, noi abbiamo intenzione, tutti i familiari dei 18 pescatori, dal più piccolo al più grande, di passare il Natale lì, a Montecitorio. A Montecitorio, ma perché voi... Sì, davanti al Parlamento, questo è poco ma sicuro. Avete deciso di fare così, perché quell'accampamento, diciamo, era stato sciolto. Adesso invece era stato sciolto, sì. Avete intenzione di tornare, se non dovessero tornare i vostri familiari, di passare il Natale lì a Montecitorio. Sì, questo è sicuro. Io la ringrazio e spero che non accada, perché vuol dire che invece potete passarlo nelle vostre case con i vostri familiari. Ma speriamo. Grazie Insaf, sì. E ci sentiamo presto. Incredibile, 95 giorni, nessuno ne parla, non molti ne parlano, ecco, alcuni sì. C'è, prima di introdurre il primo tema di oggi, un'altra persona che vi voglio fare risentire. È stata nostra ospite qualche tempo fa, un 15 giorni fa, il marciatore italiano Alex Schwarzer. Ricordate tutte le polemiche, squalificato per doping una prima volta nella sua carriera e poi squalificato Schwarzer chiese scusa con le lacrime, poi squalificato una seconda volta, e qui Schwarzer ha sempre detto è un complotto. non l'ha detto in maniera così chiara, ma questo fa capire, e molte inchieste giornalistiche hanno parlato di questa provetta delle urine prelevata il primo gennaio, e che è passata di mano in mano, qualche stranezza. Ebbene, ebbene, Schwarzer ci aveva detto queste parole riguardo al processo che è in corso nei suoi confronti a Bolzano per accusa di doping. Sentite cosa ci aveva detto Schwarzer una decina di giorni fa, 20 per la verità. Io sono convinto che a Bolzano, a livello giudiziario, uscirà per bene tutto quello che è successo veramente. Poi la questione sportiva, siccome le due cose non vanno in parallelo, sì. La mia sensazione è che le percentuali sono molto basse, anche se per esempio viene fuori il fatto che io non ho commesso il fatto, appunto, che se io risulto innocente non è detto che questa cosa viene subito accettata. Sì. Oggi il Corriere della Sera, caso Schwarzer, la procura chiede l'archiviazione e a stretto giro di posta si dovrà pronunciare il GIP Walter Pelino, che potrebbe confermare l'archiviazione. Avete capito tutti coloro che attaccavano dicendo ma che congiura, ma che di qui? Oh, per carità, questa è la giustizia penale. Potrebbe arrivare l'archiviazione, cioè vuol dire sostanzialmente c'è stato qualche incertezza, probabilmente la manipolazione della provetta è stata provata dai legali di Schwarzer, se tutto andrà così verso l'archiviazione, e quindi non si può procedere per l'accusa di doping. La giustizia penale. Che farà in questo caso la giustizia sportiva? Perché se c'è un processo in cui si dice, stiamo nelle ipotesi, in cui si dice Alex Schwarzer non ha commesso alcun reato dal punto di vista del doping e la provetta è stata manipolata, che farà la giustizia sportiva? Lo chiedo e lascio la domanda lì. Dai, 9:19 minuti, parliamo di un'altra vicenda, una vicenda giudiziaria di cui ci siamo occupati, una vicenda terribile sicuramente, la vicenda che vede accusato l'imprenditore genovese di violenza sessuale e di sequestro di persona. Alberto Genovese deve rispondere di queste accuse, lo sapete, noi non facciamo processi in diretta, per carità, e questo non è il caso, però ieri Gianluigi Nuzzi sulla Stampa raccontava di come si sta profilando l'idea di un possibile risarcimento. Soldi Genovese ne ha parecchi, questo l'abbiamo capito. Allora io vorrei partire da qui con l'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, che saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, adesso cercheremo di capire, anche perché la parola risarcimento non è mai comparsa fino a questo momento, allo stato attuale delle cose. Però io le chiedo da avvocato, le chiedo da donna, che ne pensa? È scandalosa questa idea di un risarcimento per attenuare la posizione dell'imputato genovese quando sarà imputato? Vabbè, è un meccanismo previsto dalla legge e quindi il difensore dell'imputato, se può applicarlo, lo applica. In genere si fanno molte previsioni, molte conclusioni di risarcimento per tutte le querele revocabili, e quindi non si arriva neanche alla pena, si fanno i patteggiamenti eccetera. Per quando c'è un capo di imputazione, noi non conosciamo il capo di imputazione in questo caso, che invece non è, per il quale non è possibile rinunciare, rimettere la querela, per cui c'è una denuncia, allora si può discutere del risarcimento per la riduzione della pena. Ma come ci sono mille argomenti altri che usa l'avvocato difensore per la riduzione della pena, per esempio il fatto che l'imputato non fosse completamente nel pieno delle proprie facoltà mentali per motivi ben specifici, che ci fosse una malattia acclarata, che non lo so che cosa diranno della vittima, ma in genere si coinvolge anche la vittima. Adesso le sento e vedo e leggo che tutti dicono se l'è andata a cercare, allora nessuno si va a cercare lo stupro, però magari la condizione nella quale può emergere e ci può essere, come se uno deve attraversare la strada e non attraversa sulle strisce, ma attraversa nel pieno del traffico, che forse un po' imprudente è stata. Quindi gli argomenti per difendere sono giusti, che si devono, è giusto che si debbano utilizzare, perché prima di applicare una pena i giudici devono essere resi edotti dagli avvocati di tutte le situazioni, quelle che chiamano riscontri oggettivi e riscontri soggettivi. Sì. Ecco, questo dal punto di vista, ci ha spiegato in maniera molto chiara quello che succede dal punto di vista del diritto. Ecco, ci sono le questioni, per esempio, del se l'è andata a cercare, sono insopportabili, no? Spesso si è... Non sono insopportabili, perché un po' di moralismo c'è, non ci si pone mai nell'ottica di quello che dovrebbero fare gli uomini che sono in queste situazioni, in queste feste, si pone sempre l'accento sul comportamento delle donne. Allora, io credo che noi donne che abbiamo combattuto per ottenere la pari dignità giuridica degli uomini non dobbiamo continuamente essere trattate come donne, dobbiamo essere trattate come persone sullo stesso piano degli uomini. Allora si vedono le colpe, le responsabilità e invece gli errori eventuali o i non errori di ciascuno. Cioè, io personalmente ritengo che ogni mamma dovrebbe dare un'educazione uguale sia al maschio che alla femmina verso i propri figli, al maschio di rispetto verso se stesso e verso le donne, alla femmina di rispetto verso se stesso e verso gli uomini. Poi ci dicono che gli uomini hanno la violenza innata, che è più facile che sia, che data la posizione, la conformazione anatomica, sono quelli che possono fare del male. Allora ancora di più si mette in allerta la figlia, e la donna deve crescere con questo criterio: stai attenta ai sintomi. Ci abitano alla medicina preventiva, ci fanno mettere la sciarpa prima di uscire in pieno inverno in mezzo alla strada. La donna, quando incontra un uomo, deve applicare i criteri di medicina preventiva. Allora, se uno urla, se uno le dà uno spintone, se uno le dà uno schiaffo, magari dopo i primi momenti di seduzione calma, deve scappare immediatamente. Sì, sì. Qui la situazione invece, se si capisce il contesto, era un pochino diversa. Le cosiddette feste nelle quali non è neanche, come dire, disdicevole, ecco, per una ragazza andare a una festa e pensare che possa essere quella l'occasione per incontrare qualcuno, per magari fare carriera. Certo, questo è il programma, secondo me, no? Se uno va alle feste dove si sa che si consuma droga, dove la prima cosa che fanno quando entri è toglierti il telefonino, cioè io invitata a una festa così, nel momento in cui mi chiedono di dare il telefonino, farei retromarcia, ma sia a 18 anni che a 70, senza nessun dubbio, perché ripeto, la medicina preventiva è questa. Che cosa c'è da nascondere se mi tolgono il telefonino? Allora, se poi uno vuole avere l'emozione di fare delle cose che sono proibite, è liberissimo di averlo. Senta, ma l'idea proprio del risarcimento, cioè un risarcimento anche cospicuo, ma quanto può ristorare? Tanto ormai questo è il verbo più diffuso. Cioè, mi piace moltissimo ai nostri governanti. Sì. Allora, io le dico che io mi occupo da anni di divorzi e di separazioni. Sì, certo. Nell'ambito delle famiglie, la violenza domestica purtroppo è diffusissima, ma al punto che io tante volte dico alla vittima, che vi assicuro non è solo la donna, ci sono anche delle vittime uomini, perché le donne stanno diventando forti. Allora chiedo alla vittima: qui ci sono gli elementi, abbiamo le prove per chiedere un risarcimento del danno al di là degli aspetti relativi alla separazione vera e propria, perché lei ha sofferto, perché sta male, perché lo psicologo dice che, perché la sua vita è cambiata. Allora chiediamo il risarcimento del danno, perché siamo tranquilli, cioè è una causa vinta quella che facciamo. E mi sono sentita rispondere più volte: niente potrà potrà ridarmi quello che mi è stato tolto, cioè la gioia di vivere. E questo sì. E questo sì. E si figuri in questa situazione, cioè no, se, questa situazione se la ragazza addirittura pare fuggita dopo ore e ore, quasi una giornata sì, di... Ma è una scelta personale, certamente una scelta personale condivisibile qualunque essa sia, non si può giudicare perché l'anima di una persona non può essere iscritta in uno schema, ognuno ha la sua anima con colori e disegni diversi. Per cui sia che la ragazza dovesse un domani accettare il risarcimento, sia che non lo dovesse accettare, la si dovrebbe capire. Sì. Comunque, perché l'esperienza che ha avuto lei è unica, folle, terribile. Lui qualsiasi cifra di risarcimento non sarebbe una cosa importante, sarebbe... come l'essere messo in galera, come avrebbe... come sarebbe giusto che fosse meglio. Sì, le faccio un'ultima domanda, avvocato Bernardini De Pace, dal punto di vista, se vuole, deontologico, etico. Ha visto la vicenda di un avvocato, una sua collega, che di recente si è rifiutata di difendere un uomo che dopo che quest'uomo peraltro ha ucciso la propria compagna, insomma, dicendo: io da avvocato donna difendo, non me la sento di difendere quest'uomo che conosco perché ha fatto questa cosa così terribile. E lo chiedo anche a lei, cioè, lei difenderebbe Genovese? Cioè, ci sono queste questioni, se vuole, anche di genere, che uno deve portare anche nella propria professione, nella propria vita quotidiana? Allora, io sono contraria alle questioni di genere, soprattutto perché per me l'assassino è l'assassino, l'avvocato è l'avvocato, non c'è l'assassina, l'assassino, l'avvocatessa, l'avvocato. Il ruolo che tu assumi nel momento della società è un ruolo indipendente dal genere. Ma neanche se uno fa un femminicidio, come nel caso... No, io la continuo, l'apprezzo perché è stata coerente con se stessa. Però, facendo un passo avanti, l'avvocato non difende il crimine, per cui non deve dire il femminicidio si può fare, ma difende il criminale. Certo. Quindi l'uomo o la donna in quel momento può avere delle argomentazioni a propria difesa, esattamente come il carnefice o la vittima hanno una serie di argomentazioni a favore e una serie di argomentazioni contro, che sono quelle che si giocano nel contraddittorio del processo. Certo. Affinché il giudice possa esprimere il giudizio finale. È stata chiarissima. La ringrazio, grazie Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato, per essere stata con noi. E, su questa vicenda io volevo aprire la puntata, poi dopo la pubblicità adesso parleremo un pochino dell'attualità, il dibattito sul Natale. Se volete tra poco vi faccio sentire qualcosa di Conte, ma a me sembra un po' davvero surreale da giorni. Anzi, vorrei fare un appello. Visto che molti ascoltatori sono in diretta con noi dall'estero, ci ascoltate molto all'estero, mi aiutate a capire, so che ci ascoltate dalla Svizzera, dalla Germania, ma anche dalla Danimarca. Anzi, manifestatevi con il 349-238-6666 con un WhatsApp. Fatemi capire, vorrei saperlo, se il dibattito sul Natale è fatto nei paesi in cui vivete come viene fatto in Italia. Cioè, paginate sui giornali su quanti si può stare a cena, quanti si può stare a pranzo, si può andare dal nonno, dalla nonna e dai parenti al ristorante, il veglione, il cenone. Ditecelo al 349-238-6666. Voi che ci ascoltate in diretta dall'estero, diteci quanto prende di spazio questo dibattito nell'opinione pubblica del vostro paese. Tra un attimo. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, visto che la redazione ha dimenticato di dirlo, di che il record negli Stati Uniti è dovuto al tacchino, alla festa dei tacchini. Giusto, Thanksgiving. Buongiorno Alessandro, a riguardo della legge elettorale, secondo me c'è una certezza, se mai verrà fatta sarà sicuramente molto complicata e molto variegata. Ciao Paolo da Verona. Ovvio. Uno, nessuno, 100 Milan, un programma di Alessandro Milan con, a volte, Leonardo Manera. Visto l'andazzo che mi piace molto musicale, mi mettete anche gli AC/DC, It's a Long Way to the Top? Grazie. Allora, siamo alle richieste. Ecco, vedete che belli che siete voi ascoltatori. Ho fatto l'appello per tutti coloro che ci ascoltano dall'estero e guardate qui copiosamente come avete risposto all'appello. Ciao, saluti da Vilnius, ci ascolta dalla Lituania. Neanche una parola sulla stampa locale sul problema Natale. Ai cittadini residenti viene semplicemente richiesto di attenersi alle regole. Ciao Milan, qui a Zurigo, Svizzera, si parla solo di economia, il Natale è fuori da ogni discussione, gli unici che ne parlano, gli italiani, che cercano di capire se è come tornare nella giungla dei DPCM. Ciao dal Belgio, il governo ha deciso che si potrà invitare una sola persona a Natale, 24-25, due se si vive da soli, temo non ci sia spazio per dibattiti. Grazie Marta. E ci saluta. Poi dalla Francia anche. Poi da dove in Francia, ecco, si parla della riforma delle pensioni e delle violenze della polizia. Altro che Natale, ci scrive un ascoltatore dalla Francia. Anche un altro dal Belgio. In casa è ammessa solo una persona esterna. Vabbè, ce l'hanno detto. Abbiamo due ascoltatori e ascoltatrici dal Belgio. E poi, buongiorno, vi ascolto da Londra. Qui non si parla di cenoni natalizi o visite di parenti. Sembra che le notizie principali siano il vaccino Pfizer, i cambiamenti climatici, la Brexit. Saluti Adelaide. Grazie, un abbraccio. Continuate a scriverci dall'estero che continuerò a leggere per capire se il dibattito nostro è surreale. Un po' ho capito di sì. Questo almeno dai nostri ascoltatori che ci ascoltano dall'estero. Allora, però, tornando alla questione Italia, visto che è stata citata la Pfizer, io saluto un imprenditore. Mi ha molto incuriosito la storia che ho letto sulla stampa. Corrado De Santis, presidente della Desmond S.P.A. Siamo a Nusco, Avellino. Buongiorno De Santis. Salve, buongiorno a voi. Beh, insomma, Nusco è conosciuta nel mondo per Ciriaco dei Mitei. È inevitabile, inevitabile. Allora, questa società mi ha molto incuriosito. Voi siete leader, ci spieghi magari con dei numeri, fatturato, dipendenti, nella produzione dei freezer. Quei freezer che diventano così indispensabili ora per conservare anche i vaccini. Ok, Desmond è un'azienda che nasce circa 25 anni fa, sì. È fondata da me, mio fratello e mia moglie, e nel corso del tempo abbiamo sviluppato, vuol dire, abbastanza bene questa azienda, tanto è vero che 6 anni fa siamo stati acquisiti da un gruppo americano. Americano? Sì, il Middleby Corporation, quotata al Nasdaq di New York. Perfetto. Come si può immaginare, un po' in tutti i settori c'è molta concentrazione del business da parte di queste grandi multinazionali, e poter far parte di queste multinazionali garantisce anche lo sviluppo dell'azienda in modo notevole, in quanto si ha accesso a canali di vendita che sarebbero preclusi altrimenti. Certo. Quindi abbiamo avuto diverse proposte su diversi gruppi internazionali. Ci è piaciuto molto questa società, la Midobi, perché ha un management veramente con cui si riesce a dialogare, chiaro, molto bene, chiaro, a portare avanti dei progetti notevoli. E voi però producete tutto in Italia, no? Questi Sì, noi siamo l'unica azienda del gruppo che produce refrigerazione professionale, e il gruppo è di circa 3 miliardi di volumetri di affari anno. Quindi produciamo sia per le nostre sister company sia per tantissime altre aziende che richiedono i nostri prodotti. Ecco, De Santis, ovviamente in questo momento ci sarà una richiesta, cioè vi hanno chiamato, non so quello che ci può dire, ma penso di sì, per avere commesse legate al vaccino in arrivo anche in Italia o nel mondo. Allora, voglio chiarire questo aspetto. Desmond vende in 80 paesi circa, abbiamo una rete di distributori un po' dappertutto in giro per il mondo, vendiamo soltanto il 5% del nostro volume d'affari in Italia. Perfetto. E abbiamo partecipato già da luglio scorso, quando si iniziava a parlare di vaccini a meno 70 gradi, a un gruppo di lavoro negli Stati Uniti, laddove chi era responsabile di questa emergenza doveva pensare come far arrivare i vaccini a meno 70 un po' dappertutto. Uh-huh. Sono emerse due criticità: il trasporto del prodotto del vaccino e lo stoccaggio del vaccino stesso. Perfetto. Meno 70 gradi è una temperatura molto particolare, diciamo una temperatura seria, per quanto di nicchia, è un mercato molto di nicchia, quindi oggi esiste la tecnologia per produrre prodotti che arrivano fino a meno 86 gradi di temperatura, cosiddetti ultracongelatori, il cui range di temperatura va da meno 50 a meno 86 gradi. Accidenti, ma è vero che voi siete avete messo a punto un piano per riuscire a fabbricare dai 50 ai 100 pezzi al giorno che possono garantire questo tipo di temperatura? Assolutamente sì. Desmond è un'azienda che, lavorando con diverse grandi catene americane, siamo soggetti ai cosiddetti rollout, cioè ci sono dei periodi dell'anno, dei periodi in cui queste grosse aziende, magari che hanno un certo 10.000 farmacie piuttosto che 10.000 fast food chains o quant'altro, perché Desmond opera sia nella ristorazione professionale che nel settore medicale scientifico. Quindi quando decidono di sostituire un'apparecchiatura, ovviamente si genera una domanda, un picco di domanda notevole. Beh, ma è interessantissima questa cosa. Cioè, tra l'altro lei mi ha detto 80 mercati, so che vi arrivano richieste dalla Francia, ma anche dall'Arabia Saudita, dagli Stati Uniti ovviamente, visto che siete come dire, associati a una società americana. Cioè, mi piace questa idea di eccezionalità imprenditoriale, che forse era poco conosciuta, no? Ora, e che dà lavoro a quante persone? Al momento siamo sulle 120 persone. Accidenti. È anche una realtà imprenditoriale fondamentale in una terra dove non è che il lavoro sia così alla portata. Ma diciamo, questa azienda ha sempre investito molto nella ricerca e sviluppo, che credo nel nostro paese sia il futuro per le aziende, investire nella ricerca e sviluppo per produrre prodotti ad un certo livello, per fare in modo che i ragazzi non siano costretti ad andarsene fuori, ma certo, trovare impiego in queste strutture che appunto investono in questo tipo di specializzazione. E noi ne stiamo vedendo i frutti, perché è vero, sì, come diceva lei, noi non siamo molto conosciuti in Italia, però le assicuro che nei paesi, altri paesi ci conoscono molto bene. Mi faccio chiudere con questa battuta: Nemo profeta in patria, insomma, l'avrà sentita anche lei. Quindi, mi colpisce il 5% del vostro mercato è il mercato interno, di fatto. Per il resto, in 80 paesi siete conosciuti. Io la ringrazio, perché mi piaceva in questo spazio, anche se risicato, far conoscere una realtà nel cuore dell'Irpinia, Nusco. È la società, sì, la Desmond, appunto, che fa parte del gruppo statunitense Middleby Corp, che in tutto il mondo è leader assoluta nella produzione di questi frigoriferi, non solo quelli per scopo medicale, ma anche per la ristorazione. Però complimenti e la ringrazio, Corrado De Santis. Grazie. Presidente della Desmond. Grazie. S.p.A. Società che, e soprattutto il messaggio mi sembra chiaro: investire nella tecnologia e nello sviluppo, questa è l'unica strada per creare anche posti di lavoro, per creare dunque benessere tra le popolazioni. Continuate a scriverci all'estero, ma è meravigliosa. Io facevo anche una vecchia rubrica, ricordi, Lorenzo Nespoli, gli italiani all'estero, ogni giorno ne chiamavamo uno. Ciao Italia l'avevamo chiamata. Dal Galles ci scrive Alex. ci scrive, che ci scrive? Ah, ecco, in Galles ban, cioè divieto di alcol da oggi. Caos. Ma come divieto di alcol? Ma come divieto di alcol in Galles? Com'è possibile questa cosa? Dall'Albania ci scrivono, qui in Albania si copiano i provvedimenti che prende l'Italia, controlli pari a zero. Va bene, un po' di anarchia, ci scrive l'ascoltatore dall'Albania. Ancora dalla Svizzera, non ci sono mai stati lockdown simili a quelli italiani, quindi non ci si pone il problema del Natale, semplicemente perché ognuno può fare quello che vuole. Abbracci da Zurigo, ci scrive l'ascoltatore. Giuseppe ci scrive da Klagenfurt. Qui si rispettano le regole, gira molta polizia, ciao. Beh, ma è stupendo, insomma, questa community, tanto ormai si usa questo termine, la community. Dai, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Siamo ancora nell'ennesima situazione dove spostiamo assolutamente sempre il colpevole. Ma cosa vuol dire che si sa che gli uomini sono in una certa maniera? Ma la volontà della donna non deve intervenire? Io posso avere il desiderio di andare in una festa, cioè drogarmi, fare sesso di gruppo, ma una cosa è il mio desiderio, è un'altra cosa che mi venga imposta una pratica. Non ci deve essere violenza. Punto. Ciao, Christian dal Belgio. Sono un ristoratore. No, qui assolutamente. Il Natale è vissuto come una notizia qualunque. Non è così forte come nella mia bella Italia. Ciao Milan. Siamo dalla Francia, mi chiamo Arrigo e volevo dirti che sì, il dibattito c'è anche in Francia e l'hanno risolto semplicemente dicendo che Natale e Capodanno si potranno trascorrere assieme, non nei ristoranti e non in numero superiore a 6 persone. Va bene, ci scrivono da ovunque dalla Svizzera, ma io adesso ho un solo tema, una sfida Luchetti gigantesca. Com'è che da oggi in Galles hanno vietato l'alcol? Io mi fido dei miei ascoltatori, mi scriveva dal Galles, il numero era chiaramente del Galles. Verifichiamo subito, ragazzi, cosa vuol dire vietato l'alcol da oggi? Bah, non lo so. Ada da Ferrara, buongiorno Ada. Pronto, sì? Ada, eccoci. Sì. Salve. Prego. Allora, visto il numero di morti di ieri in Italia che ha sorpassato il numero dei morti di marzo, sì, e avendo letto su Al Jazeera che sono restii al nuovo vaccino per un incremento in Corea del Sud dopo la distribuzione, un incremento naturalmente di contagi dopo la distribuzione del vaccino anti-influenzale, a me è venuto lo stesso dubbio. Possibile che non venga nessun altro? Aspetti, scusi, cosa vuol dire? Il vaccino anti-influenzale è una cosa... anti-influenzale, sì. Leggendo su Al Jazeera di ieri... Sì? In Corea del Sud, dopo il vaccino anti-influenzale, c'è stato un grosso incremento di contagi, quindi loro sono resti al vaccino anti-Covid. Ma perché lei... Visti i morti, cioè, di ieri, allora, visti il numero dei morti di ieri, come in Italia, dire, perché sì, o li ammassano. Ada, scusi, è come dire, dopo aver messo il vaccino sono aumentati, il giorno dopo ci sono stati 30 incidenti automobilistici, cioè il nesso causale tra le due cose qual è? Questa cosa c'è in Italia. Pensi che qualcuno questa domanda se la deve, se la deve porre. Ma no, ma perché, nella scienza bisogna dimostrare il nesso causale. Se lei fa un lei ipotetico fa un vaccino e dopo un quarto d'ora fa un incidente stradale, non è che può dire che il vaccino causa gli incidenti stradali, capisce? Cioè se sono aumentati le diffusioni del virus, del coronavirus, e il vaccino antinfluenzale è un altro vaccino, che nesso c'è? Potrebbero essere immessi degli anticorpi che contribuiscono a rendere positiva la persona. Guardi, fermiamoci qui, Ada. Io non sono un medico, ma mi sembra una... per carità, se vogliamo vedere i complotti, li vediamo ovunque. Adesso, cioè, lei ci sta dicendo che dopo aver dato il vaccino anti-influenzale in Corea del Sud sono aumentati i casi di coronavirus, quindi potrebbe esserci in quel vaccino anti-influenzale un qualcosa che fa stimolare la diffusione del coronavirus. Mi fermo e do la parola a Leonardo Manera, che non c'è fisicamente. No, lo usiamo dopo. Ah, lo usiamo dopo. Claudio, tanto non c'è. Ma boicottiamolo, ma censuriamolo Manera. Lo utilizziamo alle 10.05. Claudio da Pescara. Buongiorno Claudio. Buongiorno Milan, buongiorno. Eccoci, prego. Niente, io volevo tornare un attimo sull'argomento del genovese, certo. Volevo dire giusto la mia, in maniera molto breve. Ecco, la mia esperienza, io sono un DJ da 25 anni che frequento discoteche e feste, e allora, fermo restando la condanna totale all'imprenditore e al fatto che non può esserci un risarcimento per quello che ha fatto, per avere uno sconto della pena, ma purtroppo la legge lo prevede, quindi dobbiamo stare alla legge, purtroppo, ripeto. Però quello che voglio dire è questo: io ne ho viste tante nella mia carriera in questi 25 anni e sinceramente, se penso a un ragazzo di 18 anni, ripeto, 18 anni, cioè 18 anni si è piccoli per quello che succede nella società di oggi, si è molto piccoli. Non sai benissimo a che tipo di festa vai, sai benissimo cosa succedeva in quell'attico, sai benissimo cosa girava in quelle feste, in quell'attico, in quella casa. A 18 anni, se vai in una festa del genere, vuol dire che comunque per me non è la normalità. Claudio, può essere la normalità, quello che dico, attenzione, perché è sempre scivoloso il discorso. Cioè, se io l'ho detto la prima volta, se vai e sei un ragazzo o una ragazza e vai lì perché sai che c'è della droga, è una scelta censurabile, certo. Io non vorrei mai che mia figlia facesse o mio figlio questa scelta, censurabile, criticabile, ma una scelta libera. Non è che questo comporta che se assumi della droga può succedere ed è normale o può capitare, ma sai, in quel contesto che vieni stuprata. Ecco, questo è scivoloso come discorso. Giornale 1, nessuno, 100 Milan. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Allora signori, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000, state scrivendo tantissimo dall'estero. Elisa ci scrive: il remote working dalla campagna olandese, han vietato i botti a Capodanno, olandesi in rivolta, mi scrive. Mentre la sfida Lucchetti, sì, pub, caffè, ristoranti in Galles chiuderanno alle 18 da venerdì, cioè oggi, sarà vietato servire alcolici. Ma comunque l'ascoltatore simpatico dal Galles mi sta continuamente scrivendo aggiornamenti. Va bene, dai, ripartiamo da Leonardo Manera, la seconda ora. Vai, Leo! Come abbiamo appreso ieri sera dal presidente Conte, il giorno di Natale non ci si potrà spostare da un comune all'altro. Quindi io, ad esempio, che abito a Milano, non potrò andare a trovare mio padre, che invece abita a Salò. Peraltro quel giorno non potrò nemmeno vedere mio figlio, che abita con la madre solo a pochi chilometri da me, 10, ma è in un altro comune. Un po' di dispiacere c'è, è inutile negarlo, ma queste sono le regole. Tra l'altro anche mio fratello abita in un altro comune. Il premier ha sconsigliato quei giorni di frequentare persone non conviventi e quindi passerò il mio bel giorno di Natale da solo. Magari farò un presepe dove Gesù bambino nascerà nella grotta solo con Maria, Giuseppe, bue e asinello, immaginando che i pastori siano rimasti a casa causa Covid. Insomma, sicuramente sarà un Natale diverso, dove per chi resterà solo la possibilità di essere confortato sarà solo nei ricordi. Ognuno di noi probabilmente ha il ricordo di un Natale preferito, che di solito risale a quando eravamo bambini. In casa mia Natale, quando ero bambino, cominciava i primi di dicembre, quando mia madre si metteva a pulire la casa perché sarebbero venuti a trovarci i parenti. Soprattutto mia madre si concentrava sul bagno, che per il giorno di Natale doveva essere splendente. Quindi da bambino ero convinto che a Natale i parenti venissero a trovarci solo per andare in bagno. Chissà, forse pensavo che i parenti a casa loro non avessero il bagno, allora si scatenavano il giorno di Natale con il nostro. Poi mia madre insieme a mia nonna cominciava a cucinare. Avevamo un frigorifero normale che già molti giorni prima di Natale cominciava a traboccare di cibo. Mio padre, di tanto in tanto, sornione, si avvicinava a quel frigorifero come un gatto, ma mia madre lo scacciava ricordandogli che tutte quelle prelibatezze servivano per i parenti il giorno di Natale. In più, quando quel giorno di Natale si avvicinava, a me e mio fratello era quasi proibito andare in bagno, soprattutto era proibito far la doccia, perché avrebbe vanificato il lavoro di tutti i giorni precedenti, finché poi arrivava Natale. Mio padre e mia madre si vestivano eleganti e anch'io e mio fratello eleganti, anche se non troppo profumati, visto che non avevamo potuto far la doccia. Eleganti e in attesa di qualche regalo che eventualmente ci sarebbe stato portato dai parenti che arrivavano. Si mangiava molto. Mia madre, dopo aver lavorato duro per tutti quei giorni, si lasciava un po' andare, beveva un bicchiere di vino, poi di solito dava un bacio a mio padre, che contraccambiava. Ricordo che c'era un gran via vai di piatti dalla cucina al soggiorno e incredibilmente gli avanzi, pur dopo aver mangiato molto, riuscivano ancora a riempire il frigorifero. Poi verso le 5 si giocava a tombola con mio padre che distribuiva le cartelle. Ormai abituati a mangiare senza interruzione, mio padre mangiava anche i fagioli segnapunti della tombola. Poi verso sera i parenti se ne andavano, ci salutavano. Erano Natali normali, semplici, come si usava una volta, quando non c'era il Covid, ma non c'era nemmeno tutta la dispersione familiare che in tante famiglie oggi c'è. Passerò il mio Natale pensando a quegli anni, sicuramente molto più felici. L'unica consolazione è che almeno quest'anno, a Natale, potrò far la doccia. Sarà probabilmente l'unica cosa che mi scalderà. Il finale amaro ci vuole sempre. Va bene, seconda ora di Uno Nessuno a 100.000, anche Natale sarà invece in Italia, in Val d'Aosta. Saluto Graziano Dominidiato, che è il presidente di Confcommercio Val d'Aosta. Buongiorno Dominidiato e grazie di essere qui. Grazie a voi, buongiorno. Allora, perché abbiamo letto, oggi leggevo anche sulla stampa un'intervista al presidente della Val d'Aosta, insomma, si parla di una sorta di, in nome dell'autonomia, di una legge che possa far aprire con delle deroghe gli esercizi commerciali, i ristoranti. Voi che posizione avete al riguardo? Noi ovviamente prendiamo una posizione di tipo favorevole, anche perché la situazione qui nella nostra regione è una situazione particolarmente drammatica. La nostra regione ovviamente, per la sua peculiarità, è da definirsi mezzo quartiere di Torino, tanto per essere chiari, siamo 125.000 abitanti e quindi se non c'è almeno la rotazione anche da parte dei singoli abitanti che possono accedere alle attività commerciali di vario tipo è veramente una debacle su tutti i fronti. Ecco, dal punto di vista economico sicuramente è così, però la situazione sanitaria non richiede, come dire, purtroppo un dover dire sapete che c'è, quest'anno sarà un Natale che andrà così. Sì, beh, questo, tutto ciò che ho premesso è ovviamente imprescindibile dal fatto che ci sia un controllo da quello che sono tutti quanti i protocolli e vengano applicati al 100%. Dai numeri che sono stati predisposti dagli uffici preposti, sembrerebbe che non ci sia un discostarsi da quello che sono quelli che sono stati presentati a livello centrale. È vero che partono da qua, ma è vero che poi probabilmente ci sono delle interpretazioni diverse o delle difficoltà di quadratura. Quindi noi ovviamente ci affidiamo con piacere sotto un certo profilo a quello che è stato detto, ma nello stesso tempo prendiamo atto che sono state fatte delle scelte a livello politico di garantire un minimo di vivibilità a quella che è la nostra economia regionale. Sì. In concreto cosa vorreste per Natale? Cioè ci faccia capire, potrebbe esserci tutta l'Italia in un modo e la Val d'Aosta, non so, con i ristoranti aperti anche alla cena, con il Capodanno che si può festeggiare al ristorante? Beh, io credo di no, credo che ci debba essere comunque trovata una via di mezzo che permetta alle attività di sopravvivere, anche perché giustamente siamo rimasti già tre settimane, siamo alla tre settimane in zona rossa con tutto praticamente inchiodato e fermo, quindi le aziende non possono vivere solo di sussidi. Sì. E quindi devono per forza far girare un po' il mercato. Ecco, io credo che ci vada trovato un punto di incontro equilibrato e quindi sono d'accordo. Penso di poter essere d'accordo sul discorso del lockdown dopo le ore 22. Sì. E quindi questo sicuramente. Poi il discorso anche della messa, facciamola prima. Il discorso degli aperitivi è purtroppo è quello che porta avanti un po' l'economia dei bar e delle attività, diciamo, di accoglienza generale. Sì. È chiaro che nel senso se rimangono chiusi gli spostamenti tra le regioni noi siamo quelli più penalizzati perché dovrebbe esserci almeno un minimo di autorizzazione di spostamento nella provincia. Sì, perché sì. Se vogliamo fare un esempio con le altre il comune di Milano è immenso e noi abbiamo dei comuni con 600 abitanti. Quelli diventano reclusi praticamente. Non sì, possono questo è vero. No, ma è chiaro che la situazione non sarà facile. Le chiedo un'ultima cosa: siamo in veloce chiusura, presidente. Sì. Sugli impianti da sci, auspica un'apertura come in Svizzera con controlli numerici contingentata? Io credo che sono stati fatti tutta una serie di protocolli. Sì. Sono stati fatti una serie di protocolli. Le aziende si sono adeguate a mettersi a norma e da mettersi in regola. Non si può continuare a cambiare le cose. Ci sono stati degli investimenti per far sì che queste attività potessero essere aperte. Sì. Adesso neanche più quelli sono sufficienti. Mm. Quindi io credo che un minimo ci dovrebbe essere, però il ragionamento è sempre lo stesso. Se i confini sono chiusi, non sì, sono certo. Sufficienti. Beh, i fruitori sarebbero come dire i valdostani, però lei dice valdostani che quindi forse avrebbero delle piste praticamente vuote e quindi si divertirebbero di più, ma dall'altra parte gli operatori sia degli impianti sia delle attività che svolgono servizio nelle strutture non avrebbero certo. economicità nel farlo. Lo so, sarà un Natale comunque di sofferenza, di patimenti, la speranza che non lo sia quello dell'anno prossimo, anzi nella certezza vogliamo dire. Io ringrazio Graziano Dominidiato che è presidente di Confcommercio Val d'Aosta, vedremo, è su Repubblica l'intervista del presidente della Val d'Aosta oggi, la trovate a pagina 4. Il traffico. 1, nessuno, 100 Milan. meno male che abbiamo chiarito il problema della fidanzata del Conte, altrimenti che Natale facevamo? Per il periodo natalizio direi di fare qualcosa anche perché il povero frigo è stagliato e di riempirlo di qualcosa di buono, tipo costate, arrosti, proprio riempirlo. Ma nera è il frigo vistagliato, sì. Ma nera anche quando non c'è viene sempre dopo. Fantastico, ma nera. Questa non è male, questa non è colpa mia, anche perché l'ho mandato un po' in ritardo. Allora, sono le 10:22 minuti. Saluto un'ascoltatrice, ascoltatore, non lo so, dall'Argentina. Ci sta ascoltando, qui festeggeremo all'aperto, saremo a Natale. Saremo in estate, il Natale ovviamente in estate, e quindi ristoranti a strada aperti, ma quelli al chiuso solo 30% di capienza. Ora però vogliamo tornare sulla vicenda di cronaca che aveva visto protagonista, suo malgrado, perché vittima di revenge porn, una insegnante di Torino. La vicenda è classica, un video mandato privatamente al fidanzato che finisce in una chat, insomma questa insegnante di Torino è finita per essere licenziata, la vicenda è stata raccontata da tutti i giornali. Ora cosa succede? Succede che a Torino sono comparsi dei manifesti di una performance artistica molto particolare, delle foto di insegnanti reali, ma tra poco lo chiederemo all'artista, con la scritta Teachers do sex, cioè le insegnanti fanno sesso, come dire, una provocazione forte per dire basta questo bigottismo. Saluto Andrea Villa, buongiorno artista, eccoci qua. Buongiorno, grazie mille per avermi invitato. Andrea Villa che non si chiama Andrea Villa, Andrea Villa che è considerato il Banksy di Torino. È troppo Banksy? Beh, insomma, è un grande onore, immagino, no? Beh, dipende, perché comunque io faccio dei lavori molto diversi, non mi sono mai voluto paragonare a Banksy, ovviamente. È stato un titolo che mi hanno dato i giornalisti, che rispetto, però appunto preferisco essere chiamato Andrea Villa Villa, Andrea Villa, appunto. Andrea Villa, stupendo, no? Altro che Banksy, io sono Andrea Villa, diciamolo ad alta voce. Banksy chi è costui? Va bene, no, Andrea Villa da anni fa anche delle performance contro i politici, fa dei manifesti, delle performance artistiche in cui prende in giro spesso i politici. Questa volta ti sei voluto concentrare su questa vicenda di cronaca. Intanto, queste foto rappresentano davvero degli insegnanti? Sì, praticamente io ho fatto una call pubblica tra i miei contatti se c'erano delle insegnanti che volevano prestarsi appunto a questa performance. Ovviamente tutto sotto liberatoria, certo, le ho fatte firmare, certo, utilizzate, certo. Ci mancherebbe. E in realtà ho avuto molta adesione, ne ho avute tante, soprattutto anche dopo che avevo chiuso, perché avevo trovato le modelle, sì. Appunto le insegnanti che volevano prestarsi, ho avuto tante richieste anche dopo. Cioè, insegnanti che si sono mezze spogliate, ecco, possiamo dirlo, per chi non ha presente i manifesti, si sono fotografate sicuramente con parte del corpo esposta, non la faccia, per far capire, contro immagino il bigottismo, ma ora ci spieghi tu, ma che fate i moralistoni, i bacchettoni, perché le insegnanti non possono fare sesso? Qual è il senso di questa performance, Villa? Ma io praticamente ho voluto ricreare la sensazione emotiva che può provare una donna quando vede le sue foto private messe al pubblico ludibrio, pubblicate appunto in... davanti a diffuse, migliaia di persone, diffuse. Quindi l'ho fatto in piccolo, nel senso che ho preso questi selfie, che sono dei selfie anche a bassa risoluzione, come i selfie che potresti inviare al tuo ragazzo, sì. E li ho affissi in giro per la strada, così tutti i passanti potevano vederli. E quindi la mia era proprio per creare empatia anche nello spettatore su ciò che queste donne possono vivere a livello emotivo quando vengono Bello, è bello sbattere in faccia quello che vede quel manifesto e dire ma cosa ne pensi se invece fossi tu a essere, come dire, messa così in giro alla berlina, alla vista di tutti, no? Prova a immedesimarti a che cosa potresti passare dal punto di vista psicologico, no? Sì, diciamo che io penso che comunque l'arte, soprattutto la street art, dovrebbe funzionare, funziona quando in qualche modo crea un contatto emotivo o comunque un dibattito tra le persone, quando secondo l'arte diventa solamente più una questione decorativa, smette di essere arte. Quindi io cerco di creare sempre questo contatto emotivo di dibattito tra le persone e l'opera. Ovviamente ci sarà qualcuno che avrà visto questi manifesti grandi per appunto sbatterne in faccia dicendo ma che schifo è, che scandalo è, no? Immagino ci sia stata qualche reazione anche un po' contrastata, ma è proprio questo che si vuole anche generare, no? Con questo... Secondo me l'importante è creare dibattito, cioè bisogna creare dibattito sul tema, bisogna portare le persone a parlare nel bene e nel male di questa vicenda. Per esempio a livello storico, già solo negli anni 80 Madonna e Freddie Mercury hanno portato il dibattito pubblico LGBT all'interno della società, e ovviamente gli anni 80 erano ancora acerbi per i diritti, ma iniziandone a parlare tramite la musica, poi pian piano questi diritti nel mondo occidentale sono diventati sempre più acquisiti. Per il revenge porn dobbiamo fare la stessa cosa, gli artisti soprattutto dovrebbero fare delle opere che parlano di questa cosa perché creino dibattito e quindi si discuta di questa cosa all'interno della società. Sì, il messaggio poi io credo, oggi lo scrive bene Viviana Ponchi, ha scritto un articolo sul Quotidiano Nazionale, te lo segnalo. Uh-huh. Il messaggio, se ho capito, è questo, cioè far capire che una donna, ma anche un uomo, ma devo dire che le vittime di revenge porn sono soprattutto le donne, una donna, una ragazza, una donna che invia una foto privata, o esplicita al proprio compagno, non fa niente di male, cioè è una cosa, come dire, che all'interno del rapporto di coppia ci sta, e invece il farabutto è quello che la fa circolare. Non è il contrario, non è la poco di buono quella che fa una foto e la manda al proprio fidanzato per una questione di intimità loro che nessuno deve andare a sindacare, no? No, certo, assolutamente. Poi soprattutto il blaming è sempre portato verso la donna. La vergogna, cioè, la vergogna, il blaming. No, traduciamo, perché giustamente voi giovani parlate tutto il blaming. Ah no, sì, scusa. La vergogna. Cioè la vergogna, scusa. Sì. Soprattutto verso la donna, dicevi, no? È vero? Sì, ma intanto tra l'altro mi avevano anche detto ma perché non provi a fare invece la stessa cosa con le foto maschili? Ma in realtà il problema è che se un uomo in qualche modo si comporta da troio, diventa virile in qualche modo, cioè invece è considerato positivo, mentre invece lo stesso atteggiamento da parte delle donne è molto più stigmatizzato. Io ho conosciuti di maschi che hanno fatto i troi con varie donne, però nessuno ha mai voluto insultarli, stigmatizzarli o criticarli. Sì, questo secondo me è sicuramente una disparità. Questo certamente. Beh, arriva un messaggio, grande villa, ma tu un giorno dirai come ti chiami, cioè rivelerai, non so molto bene, ma rivelerai qualcosa di te, no? Non credo, anche perché diciamo che trattando temi scomodi ho avuto anche diverse minacce anche personali da parte di vari certi gruppi politici, quindi preferisco sempre mantenere un certo riservo sulla mia identità, sì, anche per la mia sicurezza, perché non avendo un volto io ho più libertà di poter dire portare i temi che voglio. In questo vedi, alla fine siamo partiti da lì e arriviamo a Banksy, il volto, il non volto, arriviamo sempre lì. So che non ti piace, certo, l'accostamento, lo trovi un po' riduttivo nei tuoi confronti, ma questo è. Ma se volete posso dirvi anche come mai io mi chiamo Andrea Villa, da dove è nato, ecco, il mio nome. Vai. Allora, praticamente io all'inizio non avevo proprio un nome come progetto, mi chiamavo Sheet Art Studio, Sheet che è il gioco di parole tra cacca e foglio. Sì. Però poi aveva fisso un manifesto, quello con Alessandra Mussolini con scritto sopra Duxlex, e con lei che aveva un preservativo in testa come aureola, e praticamente c'era il direttore dell'Espresso, cioè no, un blogger dell'Espresso che si chiama Will Non Leggerlo, sì, che su Twitter ha retweetato, conosco bene, ottimo, bravissima persona. Comunque ha recitato questo manifesto e è stato fotografato da un fotografo di strada che si chiamava Andrea Villa. Ah, e quindi... lui ha scritto foto via Andrea Villa, perché Andrea Villa gli aveva passato la foto. Certo. Libero, aveva il giornale Libero, aveva ricondiviso la notizia di Will non leggerlo, scrivendo, però copiando e incollando il post, ma sbagliandosi e scrivendo. Cioè, ti hanno attribuito il nome del, ti hanno attribuito il nome del fotografo in realtà nella foto. Esatto. E da lì, e da lì dice che bello, allora mi chiamo Andrea. Però, infatti sì. E tra l'altro la cosa ancora più divertente è che quel fotografo è venuto poi nella mia mostra, dove c'era, e io avevo la maschera e ho detto: io sono Andrea Villa, sono quello da cui è nato il tuo nome. È stupendo. Andrea, ti devo salutare, che devo andare velocemente alle informazioni sulla borsa, ma sono molto curioso, un giorno ti richiamiamo e esploriamo questo mondo. Dai, borsa 1, nessuno, 100 Milan. Siete mai stati a sciare? Se siete stati a sciare, potete mettere il numero che volete e i protocolli che volete. Quando si arriva alle stazioni di partenza delle seggiovie e delle funivie, la ressa è, vero, la ressa è, vero, è inevitabile. È vero, ha ragione. Uè pistola, Dumante che 50 anni, sei pronto? Tanti auguri ai morteci vostri, disgraziati delinquenti dei boscetti che non siete altro. Lo so. Ma no, ma lascia stare, ma lascia stare. Devo fare il festone, quest'anno faccio il festone con gli amici, farò tutti, vi inviterò tutti al 50 più 1 l'anno prossimo. Va bene, ma davvero mi è arrivato un messaggio di un ascoltatore, ha screenshottato, vi piace questa cosa, ha fatto la foto su Facebook, credo, sui social, di qualcuno che mette in vendita gli zaini dei rider, sapete che ne so, Glovo, questo è lo zaino di Just Eat, cioè vendo zaino e borsa termica Just Eat, così te la metti addosso e giri per la città e nessuno... soprattutto polizia e carabinieri ti rompono le scatole. Ma c'è, ma e giustamente l'ascoltatore dice: ma stiamo a discutere sul Natale da soli o in famiglia quando c'è chi fa questo? Mi scrive Luca da Brescia, mi manda questo. Ma davvero c'è chi è pronto a comprarsi a travestirsi da rider per girare per la città indisturbato? Ma io dico: ma se è così veramente, caro meteorite, arriva e finiamola qui. Gabriele da Milano, buongiorno Gabriele. Buongiorno, salve. Eccoci. Io ho letto solo il titolo velocemente poco fa su un sito, non so se posso fare il nome. Come no, che certo. TGCOM 24, sì. Ho solo letto il titolo inerto, non ho approfondito, sì. Che per Natale saranno previsti controlli con droni, sì. E controlli nelle case. Ma allora, nelle case, allora, sì, l'ho visto anch'io su TGCOM. Allora, nelle case, oddio, mi sembra un po'. Ma dai, mi prendendo sembra... quello che ho letto, sì, sì. Sia chiaro, non, i droni non mi stupirei perché i droni già usati. Li hanno già usati nelle case. Guardi, stia con noi, le faccio ascoltare Conte, il premier. No, ieri. Conte no. Gabriele, allora è il presidente del consiglio, allora non lo ascolti. Non tutte le ciambelle riescono col buco, però scusi. Vabbè, questo è il suo giudizio politico. Allora facciamo così, lei spenga la radio e faccio ascoltare a tutti gli ascoltatori Conte ieri in conferenza stampa ha detto che viviamo in un sistema liberale democratico e quindi non si possono fare i controlli nelle case, quindi sentiamolo. In un sistema liberal democratico noi non possiamo entrare nelle case delle persone e imporre delle stringenti limitazioni. È per questo che possiamo limitarci a introdurre una forte raccomandazione. Vabbè, forte raccomandazione, non so, Gabriele è svenuto. No, quindi ha detto Conte che non posso entrare nelle case. Adesso io non lo so, sì, da dove nasce questo titolo. Scusi un attimo, Milan. Sì. C'è anche gente che crede che il Piemonte Calcio sia onesto. Vabbè, Gabriele, lei è un battutista, Gabriele. Che lavoro fa nella vita lei? O cosa disoccupato. Fa? Ah, disoccupato. Questo mi dispiace. Mi dispiace. Però, Gabriele, teniamo quello che si può fare in democrazia è questo. Il presidente del Consiglio ha detto ieri che non potranno entrare nelle case. Vedremo cosa succederà a Natale. Certo, non sarebbe la prima contraddizione, ma io credo che entrare nelle case proprio non si potrà. Scusi, toc toc, quanti siete? Ma veramente questo neanche nella DDR con la Stasi che bussava le porte. Quindi non credo che succederà. Posti di blocco sì, i droni purtroppo li abbiamo già visti e li rivedremo. Controlli sì, dopodiché speriamo. Cristian da Catania, smettila! Cristian, buongiorno. Buongiorno. Sì, sì. Prego. No, volevo intervenire sulla legge Zan. La legge Zan, sì. Non la conosco nei dettagli, però sì, no, mi dica la sua. Per quanto riguarda i trans, che si definiscono donne, oppure non so, sì. Ho sentito sulla zanzara che doppio binario, non uomo e non donna. Scusi, ma se io chiamo un trans, una lesbica, un gay, con un nome che è scritto sul documento... Sì. Sono omofobo? Ho fatto un reato? No, se però uno si cambia il documento all'anagrafe lo dovrà chiamare con l'altro nome, ma non so, ma è un assillo che lei si porta dentro, cioè è un qualcosa che le crea un problema? Perché sono stufo di sentire, no, mi devi chiamare Maria, ma se tu Vladimir Luxura si chiama Vladimiro Guadagno, non ricordo il cognome. Guadagno. Vabbè, ma qual è un nome? Vladimiro Guadagno. Ma è un nome d'arte, scusi, ma se lo chiami adesso Guadagno, datemi Andrea Villa, l'artista che abbiamo invitato poco fa, è un nome d'arte, quindi Andrea Villa. Ma non lo metto in dubbio, però si arrabbiano se tu li chiami con un nome maschile. Basta. Allora, se vai in tribunale, un giudice ti chiama Maria o Mario, come è scritto sul documento? Per quel che mi riguarda, Maria, perché mi chiamo Alessandro Maria. Però questa è una battuta, è vero, mi chiamo Alessandro Maria, però la battuta mi veniva facile. Cristian, Vladimir Luxuria, bisogna dire tu come donna, insomma, al femminile, perché così lei chiede e quindi a me non capisco il fastidio che possa dare. Lei è Cristian e la chiamano Cristian, uomo, e Vladimir Luxuria ha scelto così per sé e punto. Non lo so, cioè non faccio fatica a entrare in questo tipo di dibattito. Andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Allora, siamo qui, ci stanno scrivendo in tante sul libro nel quale ha fatto un contributo anche Leonardo Manera, ci ha letto una favola due giorni fa, si intitola il libro, se lo volete acquistare, Ma il sole quanti raggi ha? Ecco, questo è il titolo del libro. Ma a proposito di conclusione di trasmissione, torna a trovarci un grande. Cari amici di Radio 24, benvenuti a una edizione straordinaria della mia vecchia trasmissione, il Falco e il Gabbiano. Avevo un po' di nostalgia e quindi eccomi qui a fare questa rimpatriata per la gioia mia e immagino di tutti voi ascoltatori. Il Falco e il Gabbiano racconta dei colpi d'ala, di quelle intuizioni che nella vita possono farci prendere una direzione diversa, e io oggi voglio raccontarvi la storia di una persona che è stata capace di mettere in atto proprio uno di quei colpi d'ala. Infatti vi voglio raccontare la storia di Fustolo. Chi è Fustolo? Fustolo è un ragazzo che fin dai primi anni di vita punta tutto sulla bellezza, proprio perché i suoi genitori gli insegnano che è a quello che bisogna dare importanza, alla bellezza. E allora Fustolo fin da ragazzo punta tutto su quello, invece di studiare italiano e studia tutte le puntate di Uomini e Donne per capire dove farsi fare i tatuaggi giusti, per capire da che barbiere andare, per avere la piega giusta all'ultima moda. Insomma, Fustolo ha fatto una scelta precisa nella vita, la bellezza, perché il suo sogno è proprio quello di diventare tronista a Uomini e Donne. Ma quando finalmente arriva ai provini, Fustolo scopre che ci sono tronisti anche più belli di lui, più pettinati, con più lacca nei capelli, depilati meglio e anche con qualche muscolo in più. E Fustolo si ritrova scartato e anche senza altre possibilità di lavoro, perché si è sempre disinteressato a tutto il resto e riesce a malapena a fare 2 più 2, ma con la calcolatrice in so. Ma Fustolo è nei guai, anche perché i suoi genitori si sono stancati e non vogliono più assecondarlo nelle sue speranze vane. A questo punto per Fustolo la vita sembrerebbe riservare solo amarezza, ma è proprio qui che Fustolo ha il suo colpo d'ala. Una sera, rientrando a casa, già Fustolo si ferma al supermercato per comprare, coi pochi spiccioli che gli sono rimasti, qualcosa da mettere sotto i denti, ma alla cassa nota che le signore, soprattutto quelle di una certa età, lo guardano con benevolenza, perché Fustolo, oltre a essere bello, ha proprio l'aria da bravo ragazzo. Ecco allora il colpo d'ala di Fustolo. Fustolo si accorge che può aiutare le persone anziane a mettere la spesa nei sacchetti, ma soprattutto si accorge che ci vuole un attimo per distrarre le signore anziane mentre estraggono i portafogli e per sottrarre loro qualche bella banconota. Fustolo, da bel ragazzo qual è, fa qualche complimento e mentre la donna anziana si distrae, ringrazia e sorride, Fustolo le spina un bel ventino dal portafogli e a forza di ventini si fa la giornata. Così facendo poi riesce anche ad accordarsi con la cassiera, Robinia, per truffare ulteriormente i clienti, traendo qua e l'altro denaro. In poco tempo Fustolo riesce così a mettere via abbastanza denaro per gestire un supermercato tutto suo e per sposarsi con Robinia. Bravo Fustolo, pensavi di aver fallito nei tuoi intenti, invece hai trovato il colpo d'ala che ti ha permesso di svoltare, di vivere felice e contento con una morale che farebbe invidia alle favole del clown Neronello, l'amico dei bambini. Ognuno di noi nella vita può avere un colpo d'ala. Se anche voi avete delle storie da propormi, scrivete a me oppure ai miei social o a quelli di Radio 24. Insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao dal Falco e il Gabbiano Reloaded. E allora grazie anche a Leonardo che ci ha permesso di riconoscere e riportare il grande Enrico Ruggeri a Radio 24. Va bene, ci fermiamo qui, signori. Oggi cos'è? Venerdì, giusto? Noi lunedì saremo regolarmente qui. E voi dite regolarmente? Lunedì è Sant'Ambrose, è Sant'Ambrogio, è il patrono di Milano. Ma noi siamo qui in diretta. Va bene? A lunedì!